yo te cose bene in dotto. Si tu hai bocco, nana mi ne aiuto soco. Sempre c'è pezzero leo. So un cheso che casi con il video. Anani kangaro, anani sagamoyo. Si può sawa chi li me buru guanaio. Nili kopoa tu kabla tu ye butana. Gangsta kama minya kuna. Hana waswasa na timbea kama taki anajivuta. Na kila tuwe na nukta. Kiuno chenyegi, range kinugu. Na shanga maujuzia mungu. Hakuna kofa kuna sugu. Maswali bila majibu. So unafanya nionekane chizi. Hata sielewi nini la kufanya. Akili hazifanyi kazi mekufa ganzi. Hata sielewi na unaniota mama. Zima, ila lazima ninyoshe mji mzima. Acha moyo ubebe nipeleke unapotaka. Nitarudi siku kitaka. I'm falling, I'm falling. Masikio taniziba kile cha darling. Moyo unanienda mbio. Naisoma namba. Mwili mlaini unasema liungwa kwa pamba. Hana chale, hana shanga. Mi macho mentokele kishanga. Sina kika ni chicha uganja za zamani. Ila na sifa za kuitwa mwandani. Tuchengie shuka, tuchengie majina. Nimshike mkono niende naye dunia nzima. So unafanya nionekane chizi. Hata sielewi nini la kufanya. Akili hazifanyi kazi mekufa ganzi. Hata sielewi na unaniota mama. Where you coming from? Hata sielewi, sielewi. Where you coming from? Hata sielewi, sielewi. Where you coming from? I just see a lady. See a lady.